domanda a chi sta parte, che non succede in tutti i maneri, e cominciamo a parlare con il sindaco, che finiamo le carabinieri. Di Cugliaro e a fare i diritti belli e brutti e non offendite che stanno andando per tutti. Una volta per ogni questione ne esce un chiaro pistola d'arresti e muore la prima scintilla se c'è una volantina in manifesti. Anche io che sono più svelto ma non posso andare a scuola quando leggo che gli manifesti non capisce una parola. Quando facevo i comizi parevo un cane e gatto e porre bastava le condizioni, ho mangiato lo stesso piatto. Durante le lezioni non sapevo più che avevo le dici, non passavo manco un anno e mi facevo subito amici. Ogni tanto ci ripenso e mi danno in mente non so che noti, non solo vi agisto da amici, ci resta pure le cogli di voi. Quando vi darò comuni, te lo sembra che sono impegnati e poi ti vedo quando li metto un po' le sono stati. Si dice che si impiegati, che hanno uscito tutti quanti, che poi voglio leggere che una cosa, che stiamo tutti i santi. Quando le inauguraro, festeggiare sera e mattina, e poi dire quando mi posso fare un bello bagno alla piscina. E non so ciò che ho progettato, e non mi interessa manco se è vero, voglio lasciarci che l'impacciano, che gli vieni tutto il cimitero. Prima poi sei un osso, era avere una struttura al completo, ma basta passare dalla zona industriale, che poi la stanza tua head. Non sono troppi te barchetti, mi sono pure i bamboloni da gasso, e mo caputi che a buia che io a zona mi spagno pure un passo. Ogni mattina con giacca e cravatta, vengono e ti pigliano con macchine buoni, vogliono le visite scangiare, per presidente Berlusconi. Può darsi che mi sbaglio, ma se cosa parecchio notaro, che dopo che diventa l'assessora, ho perduto tempo a sottigliare. E mo che mi dico questa carta, vi faccio benediti, che c'è una coppietta e si vincerà a me quasi. Chissà seconda storia, che prego si rovine, che si misurano un altro due, il gigante e la bambina. E davano pare ai misi, che mi accorgevi che è una cosa seria, un po' capace di trovare una zitta, e dopo si leva una zitella. E come senti parlare, un matrimonio è cosa fatta, ma non si rendere ancora conto che le puzza bucca è latte. E ora voglio parlo, da storia una guagliuna, che mi credi che era una santa, e ora che non c'è giuna. Tutto cominciava un po' lontano mi si da gusto, che pigliava in giro in gente e cominciava a pigliare gusto. Calabito un faccio a Monaco, sapevo pure i santi, e tu qui là per te ammagava tutte quante. E siccome sono corretto, ora pigliano come un'accusa, ma volevo io che faceva la lapide, che io si era freddolosa. Quando arrivo a casa macchina, avendo con gli stiamo sparati, avete pizzicato pago, stiamo da zicchio cucilati. Cuvena, vena isca, poi venire a rubare apposta, tanto avevi i miei carabinieri con ogni mezz'ora hanno una sosta. Venire la penatora, e sta cosa non è manco succede, e in un momento che avevo la ciappa, giuro che faccio resta una pelle. Su atto da rapina, prendo una brutta botta, cavare non stanno attenti, invece che vanno girando la notte. E mo non arriva l'ora, quando così buoni, invece che vedo un cavo casco e cova l'assicurazione. Sta attento che il tempo passa e non si rimane voglio una vita, a vatriani che sta girando, non posso capire di trovare la zitta.